Biografilm, arrivato alla 29ª edizione, ormai ha una sua forma direi quasi classica. Noi ci occupiamo principalmente di cinema del reale e quindi il meglio del documentario mondiale che arriva a Bologna. Abbiamo dei film di finzione, tra quelli più sperimentali, più innovativi. Quest'anno abbiamo il privilegio di avere tantissimi film che arrivano da Cannes e abbiamo anche l'ospite d'onore Tom Quinn, che è il distributore di Neon Pictures, che si è aggiudicato le ultime 6 Palme d'Oro con i suoi film. Noi lo chiamiamo Mr. Palmadoro e speriamo in questa masterclass che farà per gli addetti ai lavori e per il pubblico bolognese che ci racconti come si fa ad arrivare al punto più alto del cinema mondiale. Quindi Biografilm resta questo grande contenitore di storie, appunto globale, ma anche con un'attenzione molto locale. Ci sono 27 film italiani, di cui 11 battenti bandiera dell'Emilia Romagna, quindi produzioni o coproduzioni fatte nella nostra regione. Sedi, novità e collaborazioni. Quest'anno si è consolidata la collaborazione con la Cineteca di Bologna, in particolare la persona di Gianluca Farinelli, che continuerò sempre di ringraziare, la persona con cui insomma ci sono ormai 30 anni di lavoro in comune. Gianluca quest'anno gentilmente ha concesso la perla delle sale cinematografiche di Bologna, il cinema modernissimo, per i 3 giorni del B2B, per delle proiezioni speciali. Ci sarà l'anteprima di The End, il film di Josh Oppenheimer, che tutti aspettiamo di vedere, lo vedremo al modernissimo, e poi dopo le sedi classiche sempre della Cineteca, il cinema Lumière, la sala Scorsese, la sala Mastroianni, il cinema Arlecchino. E poi, se mi permetti, c'è anche quest'anno per la prima volta, durante l'anno Biografilm fa anche delle attività permanenti. C'è una rassegna che si chiama Top Doc, che è un po' patrocinata da noi tutti i lunedì al cinema Jolly, al cinema Arlecchino, che di solito si fermava durante Biografilm, perché durante Biografilm insomma c'è l'evento principale. Invece quest'anno continua e martedì 11 giugno ci sarà ospite di Top Doc niente meno che Asif Kapadia, il regista, anche lui premio Oscar per il film su Amy Winehouse, che però ha fatto anche 2 film amatissimi dagli sportivi italiani, il documentario su Maradona, quello su Ayrton Senna, grandi successi mondiali, che sarà a Bologna a presentare il suo nuovo film all'interno di Top Doc l'11 marzo al cinema Jolly. Quindi c'è anche un jolly nel programma di Biografilm. E per quanto riguarda collaborazioni con l'Accademia? Beh, assolutamente. Beh, il poster che vedrete in giro per tutta la città è stato fatto, è un'elaborazione grafica fatta dagli studenti dell'Accademia, e anche la sigla d'apertura del festival. Bello. È una sigla, è stata fatta dagli studenti di grafica, dagli studenti di animazione, ed è una collaborazione che vogliamo tenere nel, come dire, lo spazio possiamo dare, diciamo, la finestra del festival, non sono solo i film, ma anche appunto questi materiali di lavoro. Ci sembrava bello concederli come palestra agli studenti dell'Accademia d'Arte Bolognese.